Radio 24 Reportage. Nautica, venti di ripresa. Viaggio tra i porti turistici di Andrea Ferro. 8.000 chilometri di coste valgono una vocazione, una cultura, una tradizione. Siamo un popolo di santi, di poeti, appunto di navigatori, scrisse qualcuno. Mestieri, capacità, saperi declinati sul mare, consolidati nel tempo. Barche da costruire, barche da governare, barche da ospitare, per cullarle nei nostri bacini che coniugano natura e paesaggio, come nessun altro al mondo può offrire. Una risorsa, un'occasione e anche e soprattutto un motore, una corrente, che nel corso del tempo hanno spinto e sostenuto una delle espressioni più originali del Made in Italy, proiettandola nel mondo e circuitando ricchezza e lavoro. Un motore e una corrente che più di recente hanno rischiato di incepparsi nella burrasca della crisi, nell'onda lunga dei pregiudizi, nella risacca di norme che hanno generato paure e spinto più in là chi veniva da lontano. Ma è nella difficoltà che l'uomo di mare, tanto più se di indole latina, sa raccogliere la sfida e non perde la rotta. Fatica e incertezza, vento in faccia, ma ora i bollettini dicono che la cappa di nubi ha perso grigiore, sgonfiata dai primi raggi di un sole che indica il senso di una nuova prospettiva. UCINA, l'Unione dei Costruttori di Barche, dice che nel 2014 i ricavi della nautica italiana sono aumentati del 2,1%. Si costruiscono più barche, soprattutto se ne esportano di più e dopo anni bui anche l'occupazione cresce. E allora tocchiamola questa ripresa, raccogliendo le testimonianze di chi ha tenuto la barra dritta anche nella tempesta. E per provare a raccontarla partiamo dai porti turistici, dai quali l'orizzonte si guarda con la nitidezza tipica della lungimiranza. Ad introdurci in questa crociera di porto è Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas, l'associazione che riunisce i porti turistici. L'Italia si è avviata a diventare una delle aree più ricettive dal punto di vista nautico di tutto il Mediterraneo, perché negli ultimi 7 anni sono stati creati 17.000 nuovi posti barca, con una buona distribuzione capillare su tutte le coste italiane. Sono stati inaugurati diversi nuovi porti turistici, dal nuovo bellissimo Marina di Pisa, che è entrato in funzione, al porto turistico di Manfredonia, chiamato Marina del Gargano, al porto turistico di Sant'Elena a Venezia. C'è una disseminazione di nuove strutture. Noi oggi percepiamo finalmente nel 2015 una ripresa. Questa è la prima stagione nautica dopo 5 anni che ci dà la netta sensazione di una ripresa di coraggio, di entusiasmo, di interesse da parte della vecchia utenza nautica, da parte di nuova utenza che trova dei prezzi di imbarcazioni di livelli incredibili, estremamente allettanti. Quindi vediamo moltissime nuove famiglie avvicinarsi a questa forma di vacanza, che è la più bella, la più sportiva, la più intensa che si possa fare. Sferzati da questa brezza beneaugurante, approdiamo a Rapallo. Non per caso, perché qui, più di 40 anni fa, prese forma il primo porto turistico d'Italia. Oggi offre 400 ormeggi e a dirigerlo c'è una donna, Marina Scarpino, che ci accoglie nel suo ufficio a 2 passi dalle barche. Questo è stato il primo porto turistico in Italia. Era il 1973. 1973, da un'idea di Carlo Riva è nato il porto turistico internazionale di Rapallo, che ormai è conosciuto nel mondo come Porto Carlo Riva, nato proprio con la filosofia delle barche Riva, quindi gli Aquarama, che è la barca più conosciuta forse al mondo ancora oggi, e noi andiamo avanti da tanti anni con questa filosofia, quindi del piccolo porto che dà un grande servizio, che cerca di mantenere la propria clientela nel tempo, vedendola crescere, cioè vedendola anche partire dalle barche più piccole fino ad arrivare magari alle barche di grandi dimensioni. L'idea della famiglia che va avanti, delle grandi famiglie anche italiane che hanno vissuto tanti anni qua nel porto. Una delle caratteristiche che noi abbiamo è quella di vedere i bambini di ieri oggi imprenditori, che amano ancora il mare, amano le barche, le vogliono cambiare, vogliono vivere il mare con tutta quella che è la passione, non andando a sfrondare da tutte queste idee, questi falsi presupposti del status symbol, dello yacht di lusso, di questo, di quell'altro. Invece no, prima del lusso c'è l'amore per il mare. Com'è cambiato il suo lavoro nel corso del tempo? Diciamo che prima il porto non era un borgo. Siamo riusciti a far sì che il nostro porto diventasse un punto di aggregazione. Ma quante sono le barche in Italia di ogni forma e lunghezza? Per rispondere occorre dividerle in due grandi gruppi, quelle immatricolate, cioè sopra i 10 metri di lunghezza, e quelle no. Secondo i dati elaborati dal rapporto di Ucina, queste ultime sono nettamente di più, 475.000. Le unità immatricolate sono 103.500, sommate fanno 580.000 unità. Ma torniamo a raccontare la storia dei porti e ci spostiamo nel Golfo della Spezia, dove la densità di barche è tra le più alte del Mediterraneo, forse del mondo. Il Golfo è un sistema di insenature naturali. Nelle baie del Fezzano e delle Grazie, dove un tempo le navi si demolivano, ora le barche si costruiscono, oppure vi trovano un ormeggio sicuro e mani esperte per prendersi cura di loro. Ugo Vanelo gestisce la Marina del Fezzano. L'iniziativa parte nel lontano 94, quando l'allora cantiere navale Ricciotti, che si occupava di demolizioni, decidemmo con la famiglia, che originaria di Carrara, quindi del granito, veniamo da vicino ma distante come settore, però una grande passione la mia per la nautica, grande passione per la vela. Io a 16 anni ho vinto anche un campionato del mondo, quindi nel DNA fin da bambino avevo questa voglia di poter far diventare quella che era la passione il mio lavoro. La mia famiglia ha creduto in me, mio padre ha investito su questo giovanotto di 18 anni e ho iniziato appunto con la nautica da diporto. Oggi la Marina del Fezzano, ricordo, il primo porto verde galleggiante è stato fatto in Italia, quindi pontili galleggianti, molto attento al verde, molto attento all'ecologia. Oggi è un porticciolo con 260 appunto posti barca, che offre poi una serie, un ventaglio di offerte più disparate. Ecco. Io credo molto al mio settore, credo molto alla possibilità che questo settore può dare all'economia locale e non solo. Investire nel mare significa investire nel futuro, rivendicare una tradizione, strutturarla. Di qui il progetto, che ha già preso sostanza, di una scuola a Santa Teresa, un'altra baia del Golfo della Spezia, sulle onde come tra i banchi, nella varietà delle occasioni. Scuola di mare. Non solo scuola di vela, non solo quindi vela per bambini e adulti, ma anche scuola di subacquea, scuola di canoa, scuola windsurf. Veramente allargare e far tornare la cultura del mare. Per me è fondamentale che gli uomini di domani capiscano cosa vuol dire il mare oggi, e quindi nei nostri corsi sarà dato un ruolo importante anche quello che riguarda la cultura, quindi l'apprezzare il mare, saperlo valorizzare, saperlo utilizzare come risorsa. Golfo della Spezia, terra di mare, di generazioni battezzate nel Salmastro. Qui si tuffavano i poeti inglesi, Byron, Shelley, Porto Venere, Leri, Cittellaro, perle di inestimabile valore incastonate lungo un profilo di spigoli e di tramonti. Anche Porto Lotti è nato riconvertendo uno spazio senza rinnegare una vocazione. Dalle navi agli yacht, piccoli e grandi, 580 posti barca, altri 13 in costruzione. Andrea Lotti è l'amministratore del porto. Mi racconta il suo porto? Ma che dirle del porto? Innanzitutto il porto è una realtà che definirla propria è una grossa parola, perché innanzitutto insomma siamo in concessione demaniale, noi siamo i concessionari, abbiamo realizzato un intervento che spero possa avere un futuro roseo, come ci auguriamo tutti all'interno di questo settore. Abbiamo anche delle ambizioni di maggior sviluppo, magari in controtendenza con quello che può essere il mercato attuale o le previsioni del mercato attuale, anche se un pochino di risveglio insomma si sta vivendo, si sta percependo dopo la crisi che insomma ha invaso il settore nel 2008 e è durata insomma fino ad oggi. Il barometro segna un po' meno tempesta, mi pare di capire. Sì, il barometro francamente non è ancora sul bello, però sta già migliorando, diciamo che la tendenza è al miglioramento, e soprattutto diciamo c'è molto interesse da parte degli stranieri che si stanno spostando da zone più affollate di la Costa Azzurra o altre zone congestionate a favore dei porti soprattutto della Liguria, che in questi anni insomma si sono abbastanza spopolati per i soliti motivi che conosciamo tutti, fiscali e insomma di caccia alle streghe fatti nei confronti dei diportisti. Complessivamente in Italia i posti barca sono 170.000, altri 20.000 sono in corso di realizzazione e tra quelli esistenti 17.000, cioè il 10%, sono di nuova generazione. Sempre secondo i dati elaborati da Ucina, un approdo turistico genera mediamente 90 posti di lavoro, di cui 12 direttamente alle dipendenze del porto, 55 occupati in attività inserite nell'area portuale e 23 occupati nel territorio. Secondo il Censis, ogni 4 imbarcazioni sboccia un posto di lavoro in attività turistiche e nei servizi. Un processo di sviluppo che nel corso dell'ultimo decennio è stato avversato non solo dalla crisi ma anche dall'incrocio di norme e di interpretazioni sulle quali ora addirittura sarà chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale. Roberto Perocchio di Assomarinas ci spiega cosa è successo. I porti turistici italiani hanno subito anche uno shock nel 2007 quando l'Agenzia del Demanio ha interpretato la nuova normativa sui canoni nel senso di sostenere l'applicazione o l'applicabilità dei nuovi canoni anche alle vecchie concessioni contratto con i canoni preconcordati e indicizzati Istat. Questo significa, in poche parole, che un porto turistico che aveva fatto un investimento di decine di milioni di euro e che aveva programmato una concessione diciamo di 30-40 anni al termine del quale tutta l'opera sarebbe stata incamerata dallo Stato, si è ritrovato con un canone potenzialmente decuplicato rispetto ai patti che erano stati sottoscritti con lo Stato nella fase di costruzione. Questo ha avuto anche un impatto molto negativo sulla possibilità di attirare investimenti esteri, perché ovviamente in una fase di crisi del mercato italiano c'erano potenziali investitori statunitensi, turchi, francesi, tedeschi, però di fronte a questo comportamento schizofrenico dell'amministrazione dello Stato italiano, molti si sono scoraggiati. Porti, porticcioli, nautica, mare, una risorsa, un'opportunità sulla quale al di là di tutto le correnti paiono più benevole e spingono la ripresa. L'appuntamento è a Genova dal 30 settembre al 5 ottobre per la 55esima edizione del Salone Nautico. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.